Le confermo che ieri abbiamo scritto al presidente Bonaccini, all'assessore ai trasporti Corsini, dove abbiamo chiesto alla regione di riformulare l'ordinanza sul TPL e di introdurre nuove regole, magari di ridurre la capienza sugli autobus in virtù dell'incremento dei contagi. C'è da dire però che noi partiamo da un'ordinanza regionale del 25 giugno della regione Emilia-Romagna che ha aumentato i posti a sedere sui treni e sugli autobus extraurbani. Poi un DPCM del 28 agosto aumentava la capienza fino all'80% su tutti quanti i mezzi. Il problema è che noi abbiamo sempre detto, capiamo anche che le aziende sono in difficoltà, questo è un inciso, però abbiamo sempre detto che una capienza così ampia vuol dire diffondere più il contagio, ma la questione che interessa soprattutto noi è mettere a rischio chi lavora, vale a dire che le persone, gli autisti, piuttosto che i capitreno o altre persone che lavorano nel trasporto pubblico locale, sono troppo tempo a contatto con persone sempre diverse. Lei prima citava le aziende e questa mattina Astra, che è una delle parti datoriali del trasporto pubblico Sì. locale, ha detto che non ci sarebbe la sostenibilità se scende la capienza. Quindi cosa servono, come dire, risorse pubbliche per sopperire a questo problema? Guardi, la regione qualche settimana fa ha aumentato di 5 milioni e 400 mila chilometri gomma, varrebbe a dire molte più corse, specialmente nelle ore in cui servono le corse, come la mattina quando aprono le scuole o quando i ragazzi devono tornare a casa. Quindi si è aumentata la capienza. Secondo me servono misure alternative. Tutte le aziende, almeno le più grandi, hanno in dotazione il mobility manager. Magari usare anche questa forma di trasporto per ridurre il trasporto pubblico, per non dare tanta capienza al trasporto pubblico. Poi dopo si potrebbero usare anche mezzi che in questo momento sono fermi, come possono essere gli autobus turistici. Uno dei problemi, diciamo, si registra negli orari di punta anche di ingresso nelle scuole, anche in questo senso si potrebbero scaglionare gli ingressi? Bisogna scaglionare gli ingressi e comunque spalmare in una fascia molto più ampia le persone che entrano e escono dalle scuole. Cosa voglio dire? Cioè, invece di fare 4-5 ore concentrate, magari usare una fascia di 10 ore dalle 8 del mattino alle 6 di sera e concentrare i ragazzi in fasce diverse durante la giornata.